Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 6 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it, sms al 349 238 6666. Quanto deve costare l'acqua che esce dai nostri rubinetti? Poco, perché qualcuno dice l'acqua è un diritto inalienabile da mettere a disposizione di tutti. Oppure deve costare di più perché è una risorsa preziosa da non sprecare. E poi soprattutto, di chi è quell'acqua? L'acqua è di tutti, è un bene comune, una risorsa essenziale, dunque la sua gestione per molti deve rimanere pubblica e mantenuta a prezzi bassi. Oppure no, anche i servizi idrici devono essere liberalizzati, possono essere accessibili ai privati, come già avviene in Italia, ma come forse avverrà di più in un immediato futuro, come dico, l'argomento di cui parleremo oggi. Bisogna farne una gestione, certo, dove forse aumenteranno i prezzi, ma magari aumenterà anche l'efficienza di questa gestione. Insomma, ridotto all'osso in una domanda brutale: acqua pubblica o privata, o meglio, servizi idrici pubblici o privati? In Italia sono attivi un po' ovunque ormai dei comitati per l'acqua pubblica, che hanno anche depositato tra l'altro un paio di anni fa una proposta di legge, oltre 400.000 firme che sono lì in Parlamento, per chiedere che non venga mai privatizzata, che non venga privatizzata la gestione dei servizi idrici. Eppure si sembra che si stia andando verso un'altra direzione, cioè questa legge 133, che tra l'altro è quella che ha fatto anche litigare per i tagli alla scuola, no? E c'è un articolo in questa legge 133, un articolo, il 23 bis, che prevede che entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettano sostanzialmente sul mercato con delle gare la gestione dei servizi idrici, dunque un'apertura più ampia verso il privato, che è già presente nel business dell'acqua in Italia. Privatizzare i servizi idrici è giusto, è sbagliato? Cosa comporterebbe questo nella nostra bolletta dell'acqua? Vogliamo parlarne oggi? Saluto gli ospiti, a cominciare dal professor Antonio Massarutto, che insegna economia pubblica a Udine. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professore. Tra l'altro ha scritto un libro, L'acqua, edito dal Mulino, ma si occupa da tanti anni di questo tema, proprio dell'acqua. Come si occupa di questo tema dell'acqua da tanti anni il professor Riccardo Petrella, economista e che è anche fondatore del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'Acqua. Buongiorno professor Petrella. Anche lei. Buongiorno. Ovviamente lo dico subito, abbiamo chiamato due professori che la pensano in modo diverso, il professor Petrella e il professor Massarutto, come sentirete nella nostra trasmissione. Privatizzare i servizi idrici, brutalmente qualcuno dice privatizzare l'acqua, anche se possiamo pensare che nessuno possa credere che si possa arrivare a privatizzare l'acqua, questo appare un po' più uno slogan, ma cercheremo di capire anche questo. Alle 9:10 minuti, privatizzare o no i servizi idrici in Italia, come la legge 133 prevede a partire dal 2011, sostanzialmente entro il 31 dicembre 2010. Alcuni dati: secondo le stime, il giro d'affari dell'acqua in Italia è di 2,7 miliardi di euro, dunque fa gola ovviamente a molti. 7 società che gestiscono anche l'acqua sono quotate in borsa. Una l'avete sentita forse, A2A, dalla nostra Deborah Rosciani. Non c'è solo quello ovviamente, A2A che guadagna tra l'altro il 4%. Professor Petrella, lei, diciamolo subito, è uno degli economisti critici nei confronti della privatizzazione dell'acqua. Ci spieghi perché? Sostanzialmente poter usufruire dell'acqua è un diritto di tutti e questo penso che siamo tutti d'accordo. Però le faccio questa domanda: chi consuma paga e anche chi consuma acqua deve pagare eventualmente anche di più? Ecco, effettivamente il principio sostenuto dai promotori della privatizzazione non solo dei servizi idrici ma addirittura anche dell'acqua è basato per l'appunto sull'idea che siccome avere accesso all'acqua a casa oppure avere accesso all'acqua agli acquedotti rurali dei contadini o dagli agricoltori ha un costo, necessariamente questo costo deve essere assunto dal consumatore. Ecco per cui abbiamo applicato il principio chi consuma paga e addirittura poi anche chi inquina paga, ma è la stessa logica, il consumatore e l'inquinatore è la stessa cosa. Ora io penso che questo è un errore teorico, ma anche un errore politico, un errore culturale, perché non è detto che a partire dal momento in cui ci sia un costo, necessariamente questo costo deve essere privatizzato e riportato sulla spalla, sulla responsabilità di consumo. Ci sono dei costi che appartengono al campo dei beni e servizi dei diritti, e questi costi allora non devono essere assunti individualmente dal consumatore, ma devono essere assunti dalla collettività. Il fatto che ci sia un'assunzione da parte della collettività del costo non significa che poi allora l'accesso all'acqua o l'accesso al servizio idrico non abbia costi. Il concetto di gratuità significa che nel campo dei diritti il costo è assunto dalla collettività, ma qui gli economisti, diciamo, che sono favorevoli al privato fanno uno sbaglio a partire dalla teoria del costo. Ora, per esempio, c'è il costo di un carro armato, c'è un costo tra portaerei, c'è il costo della difesa di un paese. Se si dice, siccome c'è un costo dell'acqua, bisogna lasciarlo al consumatore o al privato, allora perché non privatizziamo l'esercito? E allora, bella provocazione, professor Massarutto, ha sentito, vede i messaggi già che arrivano, gli sms sono di questo tenore: l'acqua deve essere assolutamente un bene pubblico, chi controlla l'acqua controlla il pianeta. Secondo lei c'è un fare riferimento, fare uso di slogan quando si dice no alla privatizzazione dell'acqua, che poi vuol dire no alla privatizzazione dei servizi idrici dell'acqua, oppure c'è un timore vero? Comincerei col dire che sicuramente secondo me c'è un po' una confusione semantica intorno a questa parola privatizzazione, come lei giustamente sottolineava nell'introduzione, no? Credo che di privatizzare l'acqua in quanto risorsa, è vero che se ne è parlato a livello soprattutto teorico, ma sicuramente non mi sembra questo il tema all'ordine del giorno oggi in Europa. Anzi, l'applicazione del principio chi usa paga o chi inquina paga nel contesto europeo significa casomai, secondo me, rafforzare ancora di più la valenza pubblica della risorsa, proprio per ribadire ulteriormente il fatto che chi utilizza la risorsa, che è il bene comune, deve risarcire la collettività del danno che ha causato, no? Quindi questo è un principio affermato molto nettamente in tutti i paesi europei, dalla stessa Commissione europea nelle varie direttive, a cominciare dalla direttiva quadro, ed è quindi fuori discussione. Ecco, sul fatto che, come diceva prima il professor Petrella, sia discutibile il fatto che il servizio idrico debba essere pagato da chi lo consuma, da chi lo riceve, sicuramente c'è, diciamo, non c'è una regola universale da applicare. Io credo che sia opportuno distinguere anche fra le varie fasi storiche. Attenzione, qui non stiamo parlando tanto di acqua in quanto risorsa, ma di servizi idrici in quanto tubi, impianti, fognature, servizi igienici e quant'altro. E nella prima fase dell'urbanizzazione delle nostre città, a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, per esempio, anche in Europa si è affermato un modello universale, in tutto il mondo si è fatto un po' così, secondo cui è stata la fiscalità ad affrontare queste spese, proprio perché la valenza di bene pubblico dell'infrastruttura era prevalente nel tema, per esempio, sì, la fiscalità vuol dire noi che paghiamo le tasse pubblica, eccetera eccetera. Quando però il servizio arriva a regime e quando anche, diciamo, il potere d'acquisto delle famiglie nel corso di un secolo e mezzo è cambiato ed è tale da potersi permettere tutto sommato una spesa del genere, ecco che alcuni svantaggi di procedere attraverso la fiscalità emergono alcuni vantaggi del procedere invece attraverso un meccanismo di tipo tariffario a loro volta si manifestano. Però, professore, tanto per essere molto concreti, il timore di molti comitati per l'acqua pubblica, per esempio, è per fare un nome, visto che così tanto è sui giornali ovunque, è che la Coca-Cola entri nel business dell'acqua e gestisca, per esempio, l'imbottigliamento o l'acqua pubblica, oppure che i comuni diano a società private, società straniere, la gestione dei servizi idrici di un comune. Questo comporterebbe un aumento, per esempio, delle tariffe, laddove c'è stato in Italia, perché ci sono degli esempi di privatizzazione o di società miste, pubbliche e private, lì le tariffe sono aumentate, professor Massarutto. Allora, lasciamo perdere la Coca-Cola e l'acqua imbottigliata, che sono tutta un'altra, sì, questione. È vero che c'è che a volte si è osservata questa coincidenza fra l'affidamento della gestione dei servizi privati e l'aumento delle tariffe, però attenzione che queste due cose non sono correlate, nel senso che una certa opinione pubblica vorrebbe, cioè non è che siccome arriva il privato che guadagna un profitto e sfrutta il monopolio, allora le tariffe aumentano per questo motivo. Le tariffe aumentano perché si è fatta la scelta, giusta o sbagliata che sia, ma comunque si è fatta questa scelta di defiscalizzare la spesa, quindi non finanziarla più attraverso la fiscalità generale, attraverso le imposte pagate dai cittadini, ma di finanziarla attraverso la tariffa. Questo accade in tutti i casi e in qualsiasi modello gestionale, a prescindere dal fatto che il gestore sia un soggetto pubblico, un soggetto privato, una società mista, eccetera. Piuttosto dovremmo interrogarci su quali sono le prospettive che si aprono nei vari modelli di affidamento a pubblici e a privati riguardo alla formazione dei costi. Se questo costo poi deve essere coperto dalla tariffa, è chiaro che la tariffa aumenterà in ogni caso, no? Però dobbiamo chiederci, i costi sono maggiori se gestisce il pubblico o se gestisce il privato? Questa è anche un'altra bella domanda. I costi, però professor Petrella, vorrei tornare un attimo sulle tariffe. Qual è il timore, per esempio, oltre al timore, se mi permette, anche ideologico, nel senso positivo della valenza del termine, c'è anche un timore sulle tariffe concreto per i cittadini, che poi è quello che la gente capisce di più, insomma, sì. Se arriva al privato. Ma prima anzitutto vorrei precisare, sì, che all'inizio di industrializzazione c'è stato il modello pubblico di finanziamento attraverso la fiscalità, si è sempre tentato il privato, e dopo che sono ritornati di fronte al collasso e al fallimento del modello privato, che si è proceduto alla municipalizzazione dei vari servizi locali, compreso il servizio idrico. Poi per quanto riguarda effettivamente l'aumento della tariffa effettivamente non è legato che con il privato si aumenta l'efficienza, perché uno studio di un anno fa di Mediobanca aveva dimostrato che la gestione delle imprese ancora che restavano pubbliche, come CAP, gestione a Milano, come TASM, come Inaomi, eccetera, nell'area milanese, era di gran lunga questa efficienza superiore di tutte le altre imprese private che già operano in borsa. E poi l'aumento della tariffa non è legata per appunto a una gestione differente dei costi, è legata al fatto che a partire dal momento in cui si dice, come la legge Gallo diceva prima, che si autorizza a finanziare tutti i costi attraverso la tariffa, compreso anche un 7% di profitto, è chiaro che questo sistema tariffario si traduce necessariamente in un aumento della tariffa. E poi si è notato, chiedo scusa, tengo, sì, perché io sono stato un pochino zitto, lasci terminare, si è notato che per esempio non solo in Canada, non solo in Germania, non solo nei altri paesi dove i primi tentativi sono stati fatti di privatizzazione, ma in Francia, dove da 100 anni la gestione assicurata è l'80% da parte di imprese private, nelle 20 città con i prezzi più alti, 16 sono gestite dai privati, e nelle 20 città dove i prezzi sono più bassi, 17 sono gestite dalle cose pubbliche. Ma io la interrompevo per farle una controdomanda, professore, stia tranquillo. Sì, tra l'altro in Francia è il caso di Parigi, che ha deciso di tornare dopo anni di gestione privata alla gestione pubblica, ma le volevo fare questa controdomanda, professor Petrella. Lei vede in quello che ha detto una sorta di rischio di speculazione del bene acqua? Esatto, tant'è che addirittura non è più vero affermare che si sta privatizzando solo i servizi idrici, ma si sta privatizzando anche la risorsa acqua. Bene, quando mi è capitato di essere presidente dell'acquedotto pugliese, l'acquedotto pugliese attraverso la regione Puglia paga, acquista dalla Lucania e dalla Campania l'acqua, la quale Campania e la quale Lucania vendono l'acqua grezza a un prezzo grezzo alla Puglia, e in effetti si sono costituiti in Lucania e in Campania delle società Acqua Campania, Acqua Lucania, che sono delle società per azioni, anche se ancora massimo capitale pubblico, però sono società per azioni di diritto privato che vendono l'acqua, quindi l'acqua è già una merce in Italia, e le regioni si vendono l'acqua fra di loro. Cosa aspettiamo per dire questa mercificazione? Allora, 800 24 00 24 per intervenire. Intanto voglio salutare, ci ha raggiunto il vice sindaco di Arezzo, Giuseppe Marconi. Buongiorno, vice sindaco. Buongiorno. Allora, l'abbiamo chiamata perché Arezzo, tra l'altro, è un'esperienza che adesso ci vuole raccontare. Credo ci sia una società mista pubblico e privato di gestione del servizio idrico. È così di fatto? Sì, sì, è stata la capofila in Italia, perché è stata la prima ad applicare la legge Galli nel territorio. Esatto, la capofila in Italia. La società ci dica le quote sostanzialmente di pubblico e privato, come gestire? Il 54% è pubblico e il 46% è privato dell'Ernest Deso. Perfetto, quindi francesi. In un recente articolo di Paolo Rumiz, comunque un'inchiesta su Repubblica, sostanzialmente si diceva le differenze in bolletta da città e città, facendo un calcolo, la fonte è cittadinanzaattiva.it, servizio idrico, la spesa annuale in euro, calcolando per una famiglia di tre persone che consuma 192 metri cubi l'anno, dove costa di più ad Agrigento 445 euro, Arezzo è al secondo posto con 363 euro. Le chiedo, vice sindaco, gestione anche aperta al privato vuol dire gestione più efficiente ma bollette più care? Ma io non so, sono un po' in attesa al telefono, stavo ascoltando l'intervento prima del dottor Petrella, sì, che mi trovava perfettamente d'accordo con lui. Io vorrei fare un altro esempio adesso che sta avvenendo con la costituzione del noviato dei rifiuti, dove tutti i comuni dovranno passare da Tarsu a tariffa e quindi riversare direttamente al cittadino i costi. In questo caso si verificherà sicuramente la stessa cosa che è successo per le acque al momento della costituzione della nuova società. E non avendo più la possibilità i comuni di assorbire, come con la Tarsu, scusate, il costo eventuale maggiore dei rifiuti, dovrà essere per forza riversato in bolletta contro i cittadini. Per cui di fatto si verificherà la stessa cosa che è avvenuta per le acque. Con le acque abbiamo fatto un contratto nel quale oltre al costo dell'acqua ci sono gli ammortamenti, gli investimenti, fognature, depurazioni, per cui di fatto sono avvenuti questi costi. E ogni anno avvengono nuovi investimenti e il Comune d'Arezzo, essendo il primo capofila in Italia, di fatto sconta il fatto di essere più avanti di tutti e quindi di riversare in bolletta in più gli ammortamenti rispetto agli altri comuni. Generalmente sono tre anni in più che abbiamo di ammortamento che si riversa nella bolletta, per cui abbiamo sempre questo importo maggiore. Non saranno molto contenti i cittadini, voglio dire, nel senso, l'aumento della bolletta è una cosa, poi purtroppo, come sa, magari lei dice maggiore efficienza, ma quando si va a toccare il portafoglio dei cittadini poi... Questo è vero, però adesso abbiamo avuto una differenza epocale soprattutto sulla qualità dell'acqua. L'acqua adesso dai rubinetti bevibili, i cittadini iniziano a smettere di comprare l'acqua minerale e utilizzare quella dei rubinetti, per cui secondo me, come faccio io in famiglia, di fatto sopperiscono al maggior costo della tariffa con la diminuzione del costo dell'acqua comprata ai supermercati. Quindi secondo lei questa è una via possibile e questo è dovuto secondo lei all'apertura alla privatizzazione, all'apertura di questa società mista pubblico-privato? Sicuramente Noviacqua ha dato impulso a questa operazione, sicuramente sono stati fatti degli investimenti importanti e per cui di fatto io penso che Noviacqua abbia portato questo miglioramento. Sì. E sono convinto anche di un'altra cosa, che al momento in cui ci saranno le quote di ammortamento pregresse, sicuramente Arezzo riandrà in linea con tutte le altre città. Con le tariffe. Professor Petrella, la spaventa, la preoccupa un esperimento come quello di Arezzo? Il vice sindaco ci dice che questo permette di avere efficienza. È vero, costi più alti in bolletta, ma non vorrei entrare in merito perché del caso particolare di Arezzo sarebbe lungo, perché è un caso molto interessante tra l'altro, però vorrei ricordare anche ancora delle cifre, che per esempio il metro cubo a Milano e cap gestione era stato sugli 80 centesimi. Ed è pubblica. È considerata una delle imprese che ha potuto con 80 centesimi al metro cubo continuare a fare gli investimenti, è una delle imprese più efficienti in Italia nella gestione dei servizi idrici. Quindi io direi che al di là di questi aspetti effettivamente dove si possono trovare casi favorevoli alla privatizzazione, casi favorevoli al mantenimento o alla ripubblicizzazione, quello che importa, mi sembra anche il vice sindaco l'abbia ben notato, è la trasformazione anche dei comuni. Il pericolo nella mercificazione dell'acqua e nella privatizzazione dei servizi idrici sta per l'appunto in una trasformazione radicale della natura dei comuni. I comuni cessano di essere delle collettività territoriali responsabili pubblicamente attraverso sistemi di democrazia rappresentativa che funzionerebbe, cessano di essere responsabili del bene pubblico e dell'interesse della salute pubblica, e invece diventano, sono ridotti ad essere un ammasso di azionisti, i quali devono poi pensare semplicemente a ottenere il rendimento migliore del capitale che i comuni portano alla società privata. No, avete sentito la combattività. Io voglio, tra un attimo torno dal professor Massarutto, prima però voglio dare i primi ascoltatori che sono lì, 800 24 00 24, ovviamente per partecipare, dire la vostra sul tema: privatizzare o no i servizi idrici, l'acqua deve rimanere un bene pubblico, o meglio il servizio idrico, quindi tutto quello che è la gestione del servizio, oppure è giusto che si apra anche ai privati. Laura da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto mi trovo molto d'accordo sul fatto che lo Stato e comunque la pubblica amministrazione debba fornire un servizio e non essere un'impresa commerciale. Ma la mia domanda un pochino più precisa era: questi appaltatori che distribuiranno l'acqua saranno anche tenuti a riparare o a rifare gli acquedotti che perdono circa metà di questo bene così prezioso prima che arrivi nei nostri rubinetti? E se sì, succederà come per le autostrade, che i prezzi aumenteranno ma nessuno farà nulla? Bella domanda Laura, me la tengo perché dopo la pubblicità ne parleremo, cioè la questione degli investimenti poi nelle strutture, che poi è il tema. Lei ha detto metà dell'acqua si disperde, forse il 40%, ma comunque tantissima acqua che c'è in Italia ma viene distribuita male e si disperde negli acquedotti, per esempio nelle condutture vecchie nelle quali nessuno investe. Me la tengo lì, cara Laura, la domanda, non si preoccupi. Voglio raccogliere anche Enzo dalla provincia di Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io vivo in Sardegna e in Sardegna è avvenuto più o meno quello che è avvenuto nella città di Arezzo, nel senso la regione Sardegna ha costituito una società al 51% pubblica e al 49% privata, chiamata Banoa, che si occupa di dare l'acqua a tutti i sardi. Mentre prima con 47 enti l'acqua in certe zone non veniva pagata perché avevano le fonti e compagnia, e certe zone della Sardegna non avevano l'acqua, oggi con questa nuova società l'acqua viene data. Funziona, quindi lei dice. Funziona e viene data a un prezzo unico, nel senso che uno consuma di più e paga di più, però il costo alla lunga verrà ammortizzato perché i costi di gestione di questi 47 enti erano decisamente superiori al costo di gestione di Abbanoa. Quindi la giunta Soru in Sardegna ha dato nuovamente anche nell'acqua, che è un bene che deve essere dato a tutti, un segno concreto di come si amministra una regione intera. Va bene, grazie Enzo per il suo parere. Professor Massarutto, vuole rispondere all'ascoltatrice Laura da Modena che prima ci diceva, insomma, gli investimenti, questo poi è il tema, le chiedo proprio questo è il tema. E volevo anche ricollegarmi a un passaggio del discorso del professor Petrella che mi convinceva poco. Sembra quasi che quando si parla di affidamento ai privati il pubblico debba abdicare a quelle che sono le sue responsabilità in quanto ente tutelare della fornitura del servizio. Non è affatto così, anzi, cioè, non è il fatto che il pubblico crei delle società per azioni per gestire l'acqua non significa che il pubblico non abbia anche e in primo luogo la responsabilità di garantire il servizio ai cittadini e di stabilire le regole del gioco, fissare le tariffe, decidere quanti investimenti fare, eccetera. Dopodiché, una volta che ha deciso questo, sceglie se affidare il servizio a una società privata, se costituirsene una per conto suo, o se scegliere soluzioni intermedie come quella di Arezzo con la società mista, eccetera. Ecco, questo è un punto di partenza, nel senso che è ovvio, assolutamente è ovvio, e credo che i cittadini debbano essere tranquillizzati assolutamente su questo, che la responsabilità pubblica di fornire il servizio non viene certamente meno con l'eventuale affidamento a privati, ma anzi viene rafforzato ulteriormente. Cambia il mestiere del pubblico, che non è più quello di gestire l'attività industriale, ma è quello di disciplinarla, regolarla, decidere appunto quali sono i livelli di qualità da erogare, quali sono i livelli di investimenti da fare. Ma investimenti, quanti ce ne sono stati di investimenti, per esempio, negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni? Cioè sulle condutture? Pochissimi, Mezzogiorno perché era il meccanismo che affidava la finanza alla fiscalità, che a un certo punto è andato in tilt, essenzialmente per le ragioni legate, almeno in Italia, alla crisi della finanza pubblica. Dagli anni 90 in poi non si è investita una lira, non si è investito il becco di un quattrino nel settore idrico, perché, come sempre si sa, l'investimento nelle opere che hanno ritorni a lunghissimo termine è un po' l'agnello sacrificale di tutte le leggi finanziarie, no? Piuttosto che tagliare le pensioni, piuttosto che tagliare la spesa pubblica corrente, in situazioni di crisi chi ne fa le spese sono quasi sempre... Si tagliano gli investimenti a lungo termine. Professor Petrella, da questo punto di vista, le piacerebbe l'idea comunque di un privato, che certo, quindi essendo un privato deve far quadrare i conti e quindi guadagnare anche sul servizio idrico, però non per questo investe, migliora le strutture... Ma non è detto che il privato abbia sempre operato investimenti, anzi addirittura, conformemente a quanto dice anche il collega Masrutto, l'investimento il privato lo fa solo se ha dei ritorni a corto termine e quindi tenta di massimizzare gli investimenti, ma non mica quelli a lungo termine, facendo operare molte volte sulla tariffa anche investimenti che sono in manutenzione anziché di veri investimenti, tenta di far aumentare le tariffe per appunto guadagna subito senza aver fatto tutti gli investimenti. Quindi io ripeto, ci sono casi in cui i privati danno dimostrazioni di ben funzionare, ci sono casi in cui il pubblico dimostra di essere anche ben funzionante. Il problema non è sapere se chi è più performante, se i privati sono migliori del pubblico, cioè, il fatto è che l'acqua, che fa un campo del diritto, deve appartenere alla collettività. È il principio, e non ci devono essere, dice, forme di privatizzazione e di mercificazione rispetto ai diritti. Poi non è vero che si cambia di natura solo il mestiere del pubblico, perché una volta che si confida al privato la gestione di un servizio, è il privato che accumula tutte le conoscenze, che comincia a sapere, e finalmente è il privato che determina poi il valore che vuole avere rispetto agli investimenti, sì, il valore dei costi, i costi di produzione, e il pubblico perde addirittura ogni autonomia. Non è vero che mantiene e conserva la capacità di responsabilità e di poter definire i piani, di poter controllare, perché non è più capace di controllare, essendo invece il potere di conoscenza stato trasferito ai privati e soprattutto, per esempio, ai privati società finanziarie, ai mercati finanziari, che danno allora il denaro al gestore privato per poter investire, per cui c'è una crescente dipendenza finanziaria, asservimento delle comuni sul piano finanziario e mercato di capitali. D'altra parte però, professore, laddove il privato, per esempio le municipalizzate, perdono soldi sapendo, e questo è un brutto malcostume italiano negli anni, che tanto si ripaga e paghiamo noi con le tasse, anche questo forse è un qualcosa che, insomma, io non so se la strada sia l'altra, quella del privato, però professor Petrella, è stato il problema per appunto in Italia è che il pubblico non funziona. Ma non, non funziona perché è pubblico, non funziona perché è pubblico in Italia. I 4.000 non funziona perché siamo in Italia, lei dice. Chiedo scusa, le 4.000 imprese municipalizzate in Germania, che ancora esistono e che sono gestioni di imprese municipalizzate pubbliche, funziona. Ma noi con quello dobbiamo fare i conti, col fatto che siamo in Italia, professore. Non è che possiamo. Ma non bisogna privatizzare, bisogna allora cambiare il pubblico. Va bene, allora vado da un ascoltatore, poi ci ha raggiunto un altro ospite, Enzo, dalla provincia di Chieti. Buongiorno. Sì, buongiorno. Okay. Io posso semplicemente portare una piccola testimonianza di quello che è accaduto in provincia di Chieti, in particolar modo a Lanciano. Dunque, l'acqua pubblica, l'acqua potabile era gestita da un consorzio di comuni, quindi pienamente pubblico. A causa della cattiva gestione da parte degli amministratori di questo consorzio e dalla mancanza totale del controllo da parte dei comuni facenti parte del consorzio, il consorzio si è indebitato fino alla cima dei capelli. Cosa è accaduto? È dovuto entrare una società privata, ha rilevato il consorzio, ma non a costo zero, cari signori, l'ha rilevato a un costo esorbitante, scaricando, indovinate su chi, i costi, sopra gli utenti. Ho come il sospetto, però vede, anche quando il pubblico non funziona lo scarica sugli utenti, Enzo, con le tasse. Sì, io voglio dire, d'accordo. Cioè noi siamo sempre l'ultimo anello col quale se non funziona il pubblico, però lei sostanzialmente dice non le è piaciuta questa esperienza, perché poi è successo che su di voi di Lanciano è successo che le bollette sono aumentate, immagino. Mi perdoni un'ultima cosa. Sì. Io sono d'accordo col professore che all'estero i consorzi funzionano, in Italia non funzionano per il semplice motivo che i compagni di merende, gli amici degli amici, persone inette, cioè chi amministra questi consorzi sono degli inetti, mentre all'estero dovrebbero pagare di tasca loro, in Italia no, in Italia è finito il mandato, hanno preso 150.000 euro all'anno, hanno ridotto un consorzio sull'astrico, grazie tanti, guardiamo anche il Casa d'Italia. Va bene, grazie Enzo. Allora voglio andare da Alberto De Monaco, che saluto, buongiorno. Comitato dell'acqua pubblica ad Aprilia. Ad Aprilia è un caso che è finito un po' sui giornali, provincia di Latina, dove sostanzialmente com'è la gestione dell'acqua? La gestione dei servizi idrici, o meglio? Guardi, per noi ad Aprilia non è cambiato nulla, se non quando è subentrato il nuovo gestore, improvvisamente, da un giorno all'altro, una famiglia che con 40 metri cubi, anzi famiglia singola di una persona, ha avuto un aumento del 180%, mentre una famiglia di 3 persone ha avuto un aumento del 90%, oppure si arriva ad aumenti del 300%. Questo noi l'abbiamo saputo ad Aprilia dopo un anno, cioè hanno preso gli impianti nel 2004 e noi l'abbiamo saputo solo con l'arrivo della prima bolletta nel 2005. Aumenti fino al 300% in alcuni casi, tanto che c'è stato credo anche uno sciopero delle bollette. Non è uno sciopero, è una cosa molto più complessa. Che cos'è? Ed è un diritto che noi vantiamo, in quanto parecchi consigli comunali e anche il nostro consiglio comunale non avevano mai approvato il passaggio di gestione con il nuovo gestore, tra l'altro poi il Consiglio Comunale l'ha proprio non ratificato, quindi attenzione, c'è un cosiddetto atto prodomico amministrativo a monte che non c'è mai stato, anzi il Comune ha dato il diniego. Poi sul fatto delle tasse che sentivo poco fa, guardate, questa è una barzelletta, cioè allora mettiamoci d'accordo. Noi stiamo dicendo, anche lei credo abbia detto poco fa, gli ultimi di questa catena siamo sempre noi. È un dato di fatto. Allora prendiamo il dato di fatto. Allora si dice che prima si ripagava con le tasse, ma nel caso nostro, per esempio, per ripagare tutti gli sbilanci societari, i comuni si sono accollati, hanno detto con una delibera che avevano un debito verso il gestore di 14,7 milioni di euro nel 2005. In più, per ripianare il tutto, noi abbiamo avuto, al di là degli aumenti ad Aprilia, ma per tutto il caso del lato 4, un aumento del 5% già stabilito dal 2006 al 2014 ogni anno. Senta, le chiedo, De Monaco, è vero che per alcuni che non hanno pagato si sono presentati i tecnici della società che gestisce il servizio idrico con delle persone, insomma dei vigilantes, per far chiudere tutto, sostanzialmente chiudere l'erogazione dell'acqua? Non ho capito, mi scusi. Cioè se è vero che, come leggevo sui giornali, che si sono presentati anche per chiudere i rubinetti, certo, dell'acqua con dei vigilantes del servizio armati a seguito, come no? La scusa è stata che non riuscivano a fare queste operazioni, ma qual è il problema? La gente avrebbe dovuto soccombere dietro tutte queste mancanze amministrative e questi atti non a posto, avrebbe dovuto soccombere in modo semplice con tutti questi aumenti. E poi le dico di più, i 146 milioni previsti da fare nei primi 6 anni, nel 2006 sono stati dilatati in 8 anni. Questo contratto, e la cosa è importante dirlo, questo contratto rispetto al contratto messo a gara prima della scrittura con il gestore poi attuale è stato cambiato. Quindi a gara viene messo un contratto e poi viene cambiato. Da questo punto di vista io vorrei andare, vice sindaco di Arezzo, Giuseppe Marconi, è una situazione diversa, poi voi avete una gestione pubblico e privato, non le faccio commentare la situazione di Aprilia, però le chiedo, mettiamo il caso che il servizio idrico sia gestito da un privato, mettiamo il caso che ne so, che un ospedale non possa più pagare perché va in amministrazione dal punto di vista amministrativo e finanziario al crack. Che succede? Voglio dire, il privato potrebbe dire, signori, questo ospedale non sta pagando, io chiudo l'acqua. Lei da rappresentante vice sindaco, insomma, deve anche tutelare la salute pubblica. Che succede? C'è uno scenario futuribile, uno scenario possibile? Ma io ho ascoltato tutti gli interventi, però mi sembra che non si è collegato mai che oltre alla società che gestisce le acque ci sono anche le ATO. Quindi di fatto sono le ATO che fanno i programmi di investimenti, i programmi di gestione. Che sono gli ambiti territoriali ottimali. Bravo, esatto. Anno per anno con la società Nove, ad esempio Arezzo con la società Nove Acque. Per cui di fatto per quest'anno abbiamo già fatto un accordo con la società Nove Acque di quelli che saranno gli investimenti che la società stessa dovrà fare. Quindi di fatto, essendo poi la società Nove Acque, società mista con partecipazione pubblica maggioritaria del 50%, in assemblea io però come delegato del sindaco di Arezzo approverò questo investimento che è stato stabilito con gli ambiti territoriali. Quindi non c'è questa ipotesi di possibile conflitto tra il privato che deve far quadrare i costi e il pubblico, e comunque il comune che deve tutelare un bene che deve arrivare comunque a tutti i cittadini, secondo lei? Penso che sia interesse del privato e del pubblico che i costi quadrino, per non far poi riversare sui cittadini ulteriori costi. Per cui di fatto io devo fare in modo che a fine anno, attraverso le ATO e attraverso il controllo delle ATO, io abbia un bilancio in pareggio e quindi possa andare tranquillo nella gestione degli anni successivi e nella gestione della società stessa. Da considerare un'altra cosa, nella tariffa di Arezzo sono compresi gli ammortamenti, per cui di fatto quando scadrà la convenzione con la società Nove Acque, io avrò gratuitamente da parte della società stessa la retrocessione all'amministrazione pubblica di tutto quello che è stato fatto e tutto il servizio così com'è alla fine del mandato stesso. E questo è importante, quindi di fatto non avrò ulteriori costi da far gravare ai cittadini. Riccardo da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una precisazione. Ammesso che sono contrario a qualsiasi tipo di liberalizzazione, però per quello che riguarda l'acqua... Addirittura, qualsiasi tipo di liberalizzazione, lei non vuole la liberalizzazione? No, nella maggior parte dei casi sono rimesso, adesso le faccio qualche esempio. Va bene, no, perché comunque, così pagherà sempre di più i costi dei servizi, no, comunque... Non è reale, va comunque bene. Vabbè, al di là di questo, la liberalizzazione della luce, dell'acqua e del gas erano... da pagina 120 a pagina 130 per il bene dell'Italia nel programma di Prodi. Sì. E non ha mai pensato di attivare queste cose, perché ha pensato a fare qualsiasi cosa tranne che quello che aveva messo in quella La liberalizzazione pagina. Dei servizi idrici era nel programma di Prodi, era arrivata in Parlamento, il ministro Lanzillotta lo voleva fortemente, sappiamo insomma com'era quel governo. Comunque, c'è stata una forte resistenza di Rifondazione Comunista. Un esempio, sì. Un esempio di liberalizzazione che non conviene per niente al cittadino consumatore, come lo chiamava Bersani, sarebbe la liberalizzazione del 12, che prima costava 200 lire, adesso costa 1 euro. Se questo è un vantaggio, qua a Bologna abbiamo c'è un servizio che si chiama Aerobus. Vabbè, però Riccardo, veniamo alla questione, ho capito, lei è contro la liberalizzazione, ma sul tema acqua... Non conviene assolutamente. È contrario. Non esiste un calo dei prezzi reale, raddoppiano o triplicano. Perfetto. Quindi o si mettono d'accordo e questi prezzi calano sul serio, se no è solo una presa in giro. Allora, per i costi, tra l'altro, tra poco magari li dirò, li ho qua da qualche parte, li troverò anche. Stefano D'Alecco nel frattempo. Stefano. Volevo soltanto intervenire per un fatto di carattere generale sugli enti pubblici, i quali, come sappiamo bene, non funzionano, soprattutto per un nepotismo e e delle persone incapaci che si trovano a livello di amministratori delle società. La cosa più importante sarebbe fare una legge per la quale non si pagano gli amministratori delle varie società degli enti pubblici a meno che non raggiungano certi obiettivi o che l'ente non sia inattivo. Come avviene poi, fra parentesi, nelle società private, gli amministratori non prendono un soldo. Se la società non guadagna. Va bene, insomma il tema dell'efficienza del pubblico da questo punto di vista. Allora, i costi io li ho recuperati da una recente inchiesta. In Germania 1,90 euro è il costo dell'acqua, ovviamente al metro cubo. In Belgio 1,84, in Gran Bretagna 1,50 euro, in Francia 1,26. L'Italia è su circa una media di 1 euro al metro cubo. Professor Massarutto, su una cosa credo che lei col professor Petrella sarà d'accordo. Quando il professor Petrella dice il problema non è tanto il pubblico, il problema è il pubblico in Italia, cioè il sistema pubblico, il sistema dei servizi gestiti dal pubblico inefficienti. Ed è lì che il privato ovviamente fa i propri interessi, si infila, voglio dire, per approfittare di questa incapacità del pubblico a gestire, secondo lei? Ma vede, io sposterei l'attenzione dal modo con cui i servizi vengono affidati, che secondo me è un problema relativamente minore, e lo sposterei verso la questione di come i servizi vengono regolati. L'esperienza in tutto il mondo ci mostra che non è tanto il modello gestionale a contare, ma il modo con cui il pubblico esercita il mestiere del regolatore. Io credo sicuramente che in Italia il pubblico abbia dato delle prove, ma non soltanto in realtà molto, molto negative, come negli esempi che sono stati citati prima. Ci sono anche molti esempi virtuosi di gestione dell'acqua pubblica, così come nel settore privato ci sono gestioni positive e gestioni meno positive. Però ripeto, la qualità, la differenza la fa non tanto la natura proprietaria del gestore, quanto la natura del modello di governance, quanto la natura del modello di regolazione. Abbiamo citato a Milano appunto questo rapporto di Mediobanca. Detto questo, attenzione a come si fanno i confronti, perché se il confronto si fa sulla tariffa ci sono molti motivi per cui la tariffa può essere più alta o più bassa. Primo, che i costi sono diversi da realtà a realtà in funzione di quelle che sono le caratteristiche geografiche, urbane, eccetera, eccetera. Dove l'utenza è concentrata il servizio costa poco, dove l'utenza è dispersa il servizio costa molto, dove l'acqua è di buona qualità e accessibile facilmente il servizio costa poco, dove l'acqua va trattata, pompata, sollevata, eccetera, eccetera, il servizio costa molto. Ma lei la rivolta, per esempio, la rivolta, se uso questo termine, di Aprilia, come la vede? È giusta, voglio dire? Le persone che di fronte a una gestione scriteriata, secondo loro, hanno detto noi non paghiamo più, voglio dire, perché dobbiamo accollarci noi delle spese, e quindi poi sono arrivati a chiudere coi vigilantes. Ma io credo innanzitutto che i contratti si scrivono in due, quindi appunto se il gestore privato ha potuto comportarsi in un certo modo è perché il contratto gli permetteva di farlo, e il contratto l'hanno firmato l'impresa che gestisce il servizio, che guarda caso comunque non è un'impresa privata, è un'impresa mista, come esattamente come nel caso di Arezzo, cambia il socio ma comunque la sostanza è la stessa, no? Quindi vedete che ci sono due situazioni molto simili dal punto di vista del modello, che hanno portato però anche a esiti diversi da questo punto di vista. Ecco, secondo me la disconnessione degli utenti morosi dovrebbe essere una sanzione di estremissima razio. Perché quella è un'arma forte, cioè io ho fatto l'esempio dell'ospedale, laddove si gestisse un domani dal privato, voglio dire, l'ospedale è un comune, che facciamo? L'ospedale a maggior ragione, ma anche se si trattasse di un'utenza privata, voglio dire, credo che da parte del gestore questo sia un errore strategico politico clamoroso, perché non fa altro che attizzare situazioni di conflitto che devono essere invece affrontate e gestite con molta più calma, con molta più serenità, proprio perché la gente si deve abituare, secondo me, a questa idea, sì, secondo cui l'acqua diventa un servizio che va pagato. Vorrei sapere anche dal professor Petrella che ne pensa del caso di Aprilia, che è quello che ha avuto più l'onore delle cronache, insomma, sui giornali questa rivolta. È un'ipotesi futuribile? Io trovo scandaloso che le autorità comunali abbiano lasciato fare addirittura i gestori direttamente ad operare attraverso i vigilantes. È un'assenza totale di stato del diritto, ma questo conforta purtroppo il fatto che la società italiana, in questo momento la società italiana, non vive in uno stato di diritto. Oramai in tutti i campi si è lasciato lo sfogo totale all'individualismo più sfrenato, alle corruzioni di tipo privato più terribile, eccetera. Ritornando per esempio ancora di nuovo al diritto, no, lei sa che nel modello più avanzato di privatizzazione, che si basa sulla affermato al professor Massarutto, nel senso che dice c'è un regolatore che è il regolatore pubblico, la Water Authority in Inghilterra, e poi c'è il gestore, quindi la Water Authority dovrebbe assicurare l'interesse pubblico, eccetera. Negli anni dopo la privatizzazione fatta da Thatcher nel 79, negli anni 80 e 90 l'aumento delle rotture della fornitura è aumentato il 24%, il privato è stato, sì, autorizzato a chiudere per colui che non paga. E in Francia anche, in Francia la legge permette di interrompere la prestazione del servizio. E secondo lei questo c'è il moroso. Non va bene, secondo lei, questo è un principio? Assolutamente no, non si può permettere di autorizzare. Certo, bisogna avere allora lì un comportamento civile da parte anche dei cittadini, ma molte volte la gente non paga. Anche perché poveraccia, i poveracci sono aumentati anche in Italia, c'è l'aumento dell'impoverimento della gente, e allora in effetti ora si discute addirittura che la gente non può comprare il pane, anche il ministro Tremonti ha detto che le tariffe del pane sono scandalose, allora immaginiamoci, lei aggiunge tutte i vari servizi che oramai sono tutti privatizzati, e fortunatamente che il governo Prodi Non ce l'ha fatta per un'opposizione politica interna, però non tanto per volontà, ma questa è storia, insomma, un po' di ieri. Io, professore, devo fermare lei, così come tutti, ringraziarvi. Ci risentiamo domattina.